La rosa purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati all'appuntamento con La rosa purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Staremo insieme nella prossima ora per raccontarvi le novità che arrivano sugli schermi dei cinema italiani e in una settimana tra l'altro molto molto densa di uscite, ben 10 nuove pellicole, film spessi, importanti, densi come La banda Mastermind oppure di grande successo Oltre frontiera come Giù al nord, ma anche tanti film che arrivano dal Festival di Roma che chiude i battenti proprio in questo fine settimana. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Prima entriamo un po' nel clima cinematografico della settimana con il nostro audio sommario. E quando ci daranno il diploma avremo finito qui. Cosa ti fa pensare che avremo il diploma? Quei difensori laggiù non mi difendono! Niente fuoco in cella! Tanto domani esco. Lei è disabile da quanto tempo, signor Abrams? Ero molto piccolo, è sfocato. Era che lavori con i matti, con i pazzi, con i metti a caso, con la roba lì. Sono dei lavoratori anche bravi. E li vuol dire anche cattivi. Oh. Non voglio disturbarla più a lungo. Era che lavori coi matti, coi pazzi, coi metti a caso, con la roba lì. Sono dei lavoratori anche bravi. Che li vuol dire anche cattivi. E il lume. E allora perché ho un appalto nel centro di Milano? Abbiamo un appalto! E parliamo subito quindi del Festival di Roma che ha chiuso i battenti nel fine settimana. Noi andiamo subito a collegarci con Boris Sollazzo che ha seguito per La Rosa Purpurea il Festival di Roma per avere un po' un riepilogo di quello che è successo nel palmarès. A chi sono andati i premi, Boris? Allora, grande sorpresa a questa festa del cinema di Roma, c'era chi si aspettava il giovanilistico Gioco da ragazze, chi invece l'impegnato e impegnativo Il passato una terra straniera, invece degli italiani vince il meno previsto, Resolution 819 di Giacomo Battiato, film sulla strage di Srebrenica, film che racconta il dramma dei resti divisi e confusi dai criminali di guerra serbi e vince il premio di 75.000 euro assegnato dal pubblico. I critici invece si dirigono verso Open War, altro film di guerra, altro film molto forte, molto sociale, è Siddiq Marmak, l'unico regista afghano, il più famoso, quello che ha girato Osama, a vincere il Marco Aurelio d'Oro al miglior film, un'altra soddisfazione per l'Italia, però alla migliore attrice, Donatella Finocchiaro per Galantuomini di Whisper. Infine, il miglior attore è Bohdan Sutka per Il cuore in mano di Christoph Zanussi, quindi insomma una serie di sorprese, il pubblico si è rivelato molto maturo, con una scelta fortemente politica, i critici hanno scelto una cinematografia di periferia. E allora Boris, soffermiamoci sul primo dei tre film che da Roma arrivano direttamente nei nostri cinema. Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari. Che film è? È tratto dal libro di Gianrico Calofiglio che ha abbandonato la saga dell'avvocato Guerrieri per una storia, un romanzo di formazioni quasi alla Herman Hesse. E Daniele Vicari ne sposa lo spirito e si affida a due attori straordinari. Elio Germano, lo conosciamo, ormai è una sicurezza, una garanzia, e Michele Riondino, un bravissimo attore di teatro, che qui dà una prova straordinaria anche di maturità. Loro sono questi due ragazzi, li chiameremo ironicamente i Bari di Bari, perché barano a poker per vivere e sopravvivere, cercano la svolta, giocano d'azzardo con le carte e con la vita e invece otterranno solo il baratro. Forse il film più bello, più maturo, ma anche più difficile di Daniele Vicari, ecco perché probabilmente la critica cinematografica e il pubblico è uscito dalla sala non del tutto convinto. Un film così forse è per chi guarda la luna e non il dito. Un po' spiazzante forse, noi andiamo ad ascoltare una breve clip di Il passato è una terra straniera e poi alcune dichiarazioni del regista Daniele Vicari. È tutto bene, Giorgio? Avrò diritto anch'io a un momento di aria, no? Una vita che studio dentro quella stanza, una vita. Mi vuoi dire che cosa stai combinando, Giorgio? Niente, mamma, mi drogo, scopo con donne sposate e varo alle carte. Vabbè. La narrazione si muove sul filo dell'ambiguità dall'inizio alla fine. E in un film così si può cadere facilmente nella retorica, nel buonismo, nel cattivismo, insomma nello schematismo. I due personaggi sono come la nova e la supernova, no? Travasano uno nell'altro in continuazione nel film. Per questo c'era bisogno di due attori allo stesso livello, proprio di bravura e di capacità di impegno. Elio lo conosciamo tutti, è un grandissimo attore, è l'Ed Norton italiano secondo me. Michele, con la sua esperienza in teatro e anche con la sua esperienza di vita, dai primi provini ha dimostrato di poter gareggiare con Elio senza farsi male. Era Daniele Vicari qui alla Rosa Purpurea per Il passato è una terra straniera nelle sale cinematografiche italiane in questo fine settimana, esattamente come un altro film, una grande produzione in chiave poliziesca. Si tratta di Pride and Glory, potremmo definirlo un grande classico poliziesco. Assolutamente sì, un grande classico poliziesco e forse, giocando sul nostro genere, un grande classico poliziottesco. C'è questa, anche qui, una saga, ma è familiare, una saga poliziesca nella migliore tradizione di questo cinema di genere. Gavin O'Connor, guarda un po', di origini irlandesi, parla di poliziotti irlandesi, pare che non ce ne siano altri all'interno dei corpi di polizia a New York e dintorni. Ci stanno Colin Farrell, Edward Norton, c'è John Voight, patriarca di questa famiglia, c'è una storia sporca di divise corrotte, c'è il solito antieroe che prova a risolvere tutto. Ovviamente tutto si lacererà, tutto si dilanierà, perché all'interno di una famiglia queste lotte provocano solo sangue e lacrime. Proprio un grande classico, 2 ore e 10 di ritmo, 2 ore e 10 di grande recitazione, soprattutto Colin Farrell e Edward Norton mostrano una forma che ultimamente avevano perso, quindi senza sorprendere, però piace Pride and Glory sicuramente. E allora anche in questo caso qualche dialogo dal film e poi una dichiarazione di Colin Farrell. A tutte le unità, hanno sparato a 4 agenti di polizia. A che punto siamo con la task force? Voglio poliziotti di cui possiamo fidarci. Gli uomini uccisi erano al comando di tuo fratello. Trova chi ha ucciso quei ragazzi. Chiunque fosse non era un dilettante. Senti, ti devo dire alcune cose. Non le ho dette ancora a nessun altro. Ho parlato con quella ragazza. Lei dice che era un poliziotto. I've never really had a list of directors or characters that I wanted to involve myself with. Non ho mai avuto un elenco di registi, attori o personaggi con cui volevo lavorare e che volevo interpretare. Finora è andata bene, voglio continuare così. Guardando gli ultimi film che ho interpretato, sono pieni di violenza, cosa che io trovo mostruosa e al contempo affascinante. E quello che mi affascina è il comportamento umano che si lascia attirare dalla violenza e trova giustificazioni alle azioni violente e crudeli che esegue. Behavior at a very magnitude and very ugly level. E prima di chiudere chiediamo a Boris Sollazzo un'analisi, un bilancio su questa terza edizione del Festival del Cinema di Roma. In verità sembra un'edizione in tono minore. La seconda edizione della gestione Bettini sembrava aver individuato una propria strada. C'erano stati Juno, c'era stato Across the Universe, c'era stato Into the Wild, c'era stato molto buono cinema italiano, Mazzacurati e Soldini su tutti. Questa è stata sicuramente una edizione di transizione, pochissimi americani, quei pochi sono venuti perché uscivano di lì a poco nelle sale italiane, tanta Europa, di fatto Roma deve trovare qualcosa che sia diverso da Venezia e Torino e sia diverso anche dagli altri grandi festival internazionali, e questo non sembra esserci ancora stato, ha solo 3 anni. Tempo ce n'è. Parleremo fra poco di un altro film passato a Roma, Si può fare, di Giulio Manfredoni, ascolteremo l'intervista col regista. Un saluto a Boris Sollazzo. Un saluto a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, ancora insieme, con un altro paio di novità in sala cinematografica. Partiamo con La banda Bader-Meinhof, il film di Uli Edel, che rappresenta una riflessione 30 anni dopo sul terrorismo tedesco degli anni 70. La banda Bader-Meinhof, la Rote Armee Fraktion, la principale organizzazione tedesca terroristica, insanguinò gli anni 70 della Germania. La sua ferocia, la sua freddezza e anche il lungo processo cui Ulrike Meinhof e Andreas Bader vennero sottoposti insieme a tutti i componenti di questo gruppo terroristico furono quotidianamente nei telegiornali italiani. Chi ha più di 40 anni, diciamo così, forse ricorda la ricorrenza di questo nome, fino al suicidio sul quale è sempre gravato un grosso punto interrogativo nel carcere di Stammin. Di tutto questo parla il film, sentiamo con quali esiti dal nostro Diego Giuliani. 2 giugno 1967, Berlino. Inizia così la storia della RAF, il gruppo terroristico tedesco che per 10 anni esatti tenne in scacco la Repubblica Federale con la sua strategia di terrore e guerriglia urbana. I giovani protestano in piazza contro la visita dello Shah di Persia, ma uno di loro resta sul campo freddato da un poliziotto. Una morte che in molti desta una consapevolezza nuova. La Germania è soltanto uno dei tanti fronti di una guerra imperialistica internazionale. Fino alla morte o alla vittoria sull'esercito americano! Germania migliaia di persone dimostrano contro la guerra in Vietnam. L'onda lunga di Berkeley arriva in Europa e venti di contestazione cominciano a soffiare anche a Parigi, Roma, Berlino. In platea fra i tanti studenti c'è Ulrike Meinhof, la giovane giornalista che sarebbe poi diventata la spietata e lucidissima teorica del gruppo. E con lei, interpretata da una straordinaria Martina Gedeck, l'anima invece più irruenta e impulsiva a cui presta volto e ottima fisicità un altrettanto bravo Moritz Bleibtreu. Il nostro presidente della giuria è un fascista di merda! Il regista Uliedel zoom su privato e follia dei neoterroristi, ma non dimentica di allargare il campo sull'humus che ne alimenta la disperata lotta. Il massacro in Vietnam, il rapimento di Che Guevara, l'assassinio di Martin Luther King, tutto sembra confermare la teoria della banda che in Ulrike Meinhof e Andreas Bader ha trovato il suo micidiale connubio di lucida persuasione e spietata efficacia militare. Cambieremo la situazione politica. Questa è una follia. Ormai ho deciso. È la nostra responsabilità di fronte alla storia. E proprio quelli su follia, incidenza politica e responsabilità storica della banda Bader-Meinhof sono gli interrogativi con cui a 30 anni di distanza la Germania continua a lacerarsi in cerca di una risposta. Un passato che, come conferma Uliedel, ancora stenta a passare. Non credo che si sia fatta pace con la RAF e la sua epoca. In verità ci si confronta con quella storia. Penso al trentennale e al dibattito che c'è stato e così dopo il nostro film. Di sicuro questo serve a far chiarezza. Io ammetto che fino a un certo punto subì una certa fascinazione, ma solo fino a un certo punto. Es ist etwas, was auch in Deutschland eigentlich nicht wirklich verarbeitet ist. Guardando in prospettiva, credo che non sia di nessuna utilità affilare le armi o, come pretende qualcuno, far cadere un po' di teste. Non è la polizia. Sono i politici che devono cambiare le condizioni che generano quel brodo di cultura. Un senso della misura, quello che il regista affida alle parole del capo della polizia Bruno Ganz, che la critica ha giustamente riconosciuto al film anche in patria, un miracoloso equilibrismo fra temi ad altissimo rischio che si tiene però sempre a distanza dalle polemiche e non ha invece paura di pescare anche a piene mani nelle contraddizioni più dolorose. A lui insomma il merito di ricordarci per una volta come il cinema possa ogni tanto davvero aiutare a ricostruire e a capire la storia. La banda Bader-Meinhof nelle sale cinematografiche italiane è l'uscita più impegnata di questa settimana. Noi andiamo a sentire la prima traccia misteriosa per quanto riguarda il DVD game di questa puntata. Marta, ma che... Si vede! Si vede! Ma cosa? Oh, lo so che mi lavano la parte. Rivestiti, dai, che metto loro. Stanno guardando tutti. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere il DVD di questo film. Più tardi altre possibilità e altri ascolti. E ora cambiamo decisamente clima, è ormai un cult totale, chiunque abbia figli fra i 7 e i 14 anni non è sicuramente scampato al ciclone High School Musical. Tre anni fa la Disney, in maniera del tutto innovativa per quanto riguarda il lancio di un film, scelse il suo canale di famiglia, Disney Channel, per lanciare questo musical, High School Musical, un grande battage pre e post, ma ci si chiedeva che tipo di presa avrebbe potuto avere questo fenomeno, visto che solo sul satellite praticamente, quindi per un pubblico comunque limitato. E invece le cose andarono in maniera incredibile, un successo proprio al di là del numero di bambini, di ragazzi che si affezionarono a questo film, ma anche proprio un successo fu la capacità di penetrazione. Questi personaggi sono diventati dei modelli per molti dei nostri figli, fino a arrivare ad High School Musical 2 e adesso ad High School Musical 3, che per la prima volta esce al cinema, esce direttamente in sala, ancora a ritmo di musical. Lo ha visto per noi Daniela Fagion. 16 minutes left, better get it done. 16 more minutes, get ready, game on! La squadra degli Wildcats vince la sfida dell'anno e Troy Bolton corona il suo corso di studente liceale con il massimo riconoscimento possibile, viatico importantissimo per la scelta dell'università. E già, perché giorno dopo giorno la high school è ormai agli sgoccioli e gli studenti devono decidere che cosa fare del loro futuro. Per un finale memorabile, Miss Darbus vuole dai ragazzi uno spettacolo assolutamente sincero, in cui raccontino loro stessi e le loro ambizioni. Tra il pubblico, tra l'altro, ci saranno due delegati di un'esclusiva scuola d'arte di New York per scegliere chi portare nella grande mela tra Troy, Sharpay, Ryan e Kelsey. No. Don't panic. I preparativi per lo spettacolo, che anticipa anche l'importantissimo ballo di fine anno, si mescolano con le paure per il futuro e le sue complicazioni. L'università porterà lontani amicizie e amori del liceo e i primi ad accorgersene sono Troy e Gabriella. Lei viene accettata ad Harvard e deve trasferirsi prima della fine dell'anno. Lui rimane solo a chiedersi se voglia dedicarsi allo sport o all'arte. La strada verso l'età adulta è irta di dubbi, ma alla fine l'amore, siamo in casa Disney, non va dimenticato, non potrà che trionfare. Imagine having everything we ever dreamed. Don't you want it? Maybe. Can't you see it? Kinda. Imagine. Pulito pulito questo High School Musical 3, scolastico come richiesto dal target, ma assolutamente gradevole e curato. Balletti e canzoni mostrano il percorso interiore dei protagonisti, non particolarmente travagliato, ma soprattutto la crescita vera dei loro interpreti, primo tra tutti Zac Efron, sempre più divo e proiettato verso un radioso futuro di attore. Sentiamo allora l'interprete di Troy. You know the challenges of growing up. Questa volta affrontiamo la sfida di crescere. I ragazzi diventano adulti e devono prendere decisioni per conto loro. C'è molta pressione, molte aspettative per gli studenti del liceo e noi facciamo quello che ci si aspetta in High School Musical. Ci cantiamo su. Ed eccoci all'appuntamento settimanale con Trailer USA, la nostra rubrica che ci porta a scoprire in anteprima i suoni e le voci dei nuovi film americani che poi vedremo nel corso di questa o di altre stagioni, chi lo sa, anche qui in Italia. Oggi parliamo di CineDoc New York, il film presentato a Cannes che vede protagonista uno dei miei attori preferiti di questa epoca, ovvero Philip Seymour Hoffman. Ebbene, Micaela Belisario ci ha raggiunto qui in studio. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, oggi parliamo di CineDoc New York. Di cosa racconta questo film? Il film è diretto da Charlie Kaufman, è il suo primo film e lui è conosciuto soprattutto per aver scritto Confessioni di una mente pericolosa, essere John Malkovich. Il cast contempla attori di spessore, oltre a Philip Seymour Hoffman che hai già citato. Ci sono Michelle Williams, Emily Watson, Hope Davis e Samantha Morton. Dobbiamo fare un piccolo focus sul titolo, CineDoc New York, poi chissà come si pronuncerà veramente, ma la figura retorica, la CineDoc, che come molti forse non sapranno, consiste nell'uso in senso figurato di una parola al posto di un'altra, attraverso l'ampliamento o la restrizione del significato. Quindi in questo senso questa parola è legata, diciamo così, alla città di New York. Cerchiamo di entrare però un po' più nel vivo del film ascoltando come sempre i trailer. Cosa ci fai sentire? Beh, intanto una piccola anticipazione sulla storia senza ovviamente rivelare il finale. È la storia di un regista teatrale che si chiama Charlie Kaufman, interpretato da Philip Seymour Hoffman, che una mattina si sveglia con strani presentimenti e tutto comincia ad andare a rotoli. Lui comincia a diventare ossessionato dalle malattie, gli compaiono strane pustole, la figlioletta, fino ad allora una bravissima bambina, si ritrova a Berlino a ballare la lap dance, la moglie scappa con un'amica lesbica. Insomma, una storia molto complessa. Il primo trailer che vi facciamo ascoltare è un pezzo in cui Philip Seymour Hoffman va dal medico che però rifiuta di fargli la diagnosi, gli rifiuta di dirgli cos'ha. I have a lot of problems. Going through some things. I'm hurt. Am I dying? Can you tell me that? I can't tell you. You can't tell me? No. No, you can't tell me if you can't tell me. No. Dicevi, Micaela, un clima surreale permea un po' tutto il film. Sì, è surreale, però in platea Franco si ride, mentre appunto per il protagonista Philip Seymour Hoffman è l'inferno, perché gli succede di tutto, alle pustole, i tremori, convulsioni, gengive che sanguinano, sembra quasi un horror. E il bello è che nessuno dei protagonisti riesce a trovare pace nel film. Ora sentiamo allora un altro pezzo del trailer in cui sempre il protagonista Charlie Kaufman confessa alla sua psicanalista che sta per morire e vorrebbe fare qualcosa di importante per restare alla storia, e lei invece di consolarlo come dovrebbe fare insomma una specialista della mente gli risponde sì, che può provarci nel tempo che gli resta. I'm afraid I'm gonna die. Anything else? They don't know what's wrong with me, and I want to do something important while I'm still here. That would be the time to do it, yes. CineDoc New York, a Trailer USA, qui alla Rosa Purpurea. Alla prossima settimana, Micaela. Ciao, Franco. E linea ora alla regia, fra poco torniamo qui alla Rosa Purpurea. Altri due film sotto la nostra lente di ingrandimento. Giù al Nord, grande successo in Francia, e Si può fare, il bel film sui matti liberati dalla legge 180 di Giulio Manfredonia con Claudio Bisio. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma. Prosegue la presentazione dei film in uscita nelle sale cinematografiche italiane. Abbiamo un campione di incassi assoluto, il film che ha battuto ogni record al botteghino francese. Si intitola Giù al Nord, è un film che potremmo avvicinare a quello che era il clima di certa commedia all'italiana degli anni 60, ma soprattutto 70, ecco, in chiave francese e contemporanea. Ce ne parla Barbara Righini. In Francia è stato un tale successo da aver indotto il distributore italiano all'uscita nel nostro paese in 400 copie e a ipotizzare, ancor prima del test al botteghino, un remake italiano di Giù al Nord. Danny Bonn, attore francese che con questo film debutta alla regia, ha vinto la sua scommessa ironizzando sui pregiudizi che circondano la gente del Nord in Francia. Un funzionario delle poste, Philippe Abrams, cerca disperatamente il trasferimento in Costa Azzurra per fare felice la moglie, ma a causa di un suo inganno viene punito e spedito altrove, a Nord Pas-de-Calais, un posto con la fama di essere inospitale. E in effetti, al suo arrivo l'accoglie un brutto temporale. Philippe investe con l'auto un suo futuro collega. Oh mio Dio, tutto bene? Non è morto? Benvenuto, signor direttore. Il signor Bayer? Sì, sono io. Ma capuzza! Non si muova, non si muova! Meglio chiamare i soccorsi. Oh, le assicuro che si esprime in maniera molto, molto particolare. Cher pays de mon enfance. Infatti, fra i cliché ci sono quelli legati alla lingua. Nel nord si parla un francese che si stenta a riconoscere, fa freddo e il tasso di criminalità sarebbe elevato. Niente di più falso, però. Philippe sarà accolto a braccia aperte, tanto che farà molta fatica poi a distaccarsi dal nuovo gruppo di amici. Un film che è nato dall'esperienza personale del regista Danny Bonn, originario del nord. J'y pensais depuis longtemps. J'avais ça en tête, je voulais réaliser un premier film avant de le faire pour voir si j'étais. Ci pensavo da molto tempo, ce l'avevo in testa, ma volevo fare un altro film prima per capire se ero in grado di dirigere, perché non volevo sbagliare con un film personale. Dovevo fare questo film, l'avevo in testa da parecchio tempo. Ed è vero che in Francia una commedia si gira al sud e un dramma si gira al nord. Io volevo fare l'inverso, una commedia al nord, per la prima volta una commedia sulla regione che la valorizzasse con toni umoristici ed emotivi. Sì, è un film personale. E se l'avessi sbagliato ci sarei rimasto molto male. Se j'avais raté il film, j'aurais été très très mal. Oui, très très mal. Divertente e spassoso, anche se un po' scontato nel finale. Giù al Nord è un film fresco che strappa diverse risate. L'ironia giocata sui cliché potrebbe essere facilmente applicata in effetti anche al caso italiano, dove i pregiudizi vanno in entrambi i sensi, da nord verso sud e da sud verso nord. Siamo dalle parti di Jacques Tati e di Norisi. Giù al Nord nelle sale cinematografiche italiane. Noi siamo al secondo appuntamento, alla seconda tranche del nostro DVD Game di questa settimana. Ascoltiamo. Cosa è cambiato? I topi non avevano nipoti. E questa è una buona... I topi non avevano nipoti. E cos'è? Ma che ridi? Cos'è questa storia dei topi nipoti? Ti arrendi? Sì, mi arrendo. È un palindromo. I topi non avevano nipoti. Hai capito? Si legge anche al contrario. Avete capito di che film si tratta? Non dovrebbe essere così difficile. Un grande successo recente del nostro cinema. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se avete indovinato, se no c'è un'altra possibilità nella quarta parte del nostro programma. E adesso noi ci spostiamo all'ultima proposta di questo weekend. Non è l'ultima in termini numerici, ma non abbiamo più spazio e, come dicevo all'inizio della trasmissione, abbiamo dovuto fare delle scelte. Siamo felici di aver fatto questa scelta. Si può fare. Giulio Manfredonia, che torna con il suo terzo lungometraggio dopo Se fossi in te ed È già ieri, e racconta la storia di una rivoluzione che c'è stata in Italia alla fine degli anni 70, una rivoluzione vera, di quelle che lasciano il segno. L'aveva firmata un uomo, uno psichiatra, Franco Basaglia, aveva chiuso i manicomi e liberato migliaia di matti, obbligando la società a fare i conti con il loro reinserimento. È negli anni immediatamente successivi a quella rivoluzione che si colloca appunto questo film, Si può fare. È il 1983, nella Milano da bere la tradizione operaia si fonde ai primi scintillii della moda, spettacolo. Nello è un sindacalista avanti di 20 anni per stessa missione dei suoi compagni, parla di mercato più che di Marx, gli viene affidata la direzione di una cooperativa di lavoro fatta di matti. Prima di mettere i voti ricapitoliamo. Chi si ricorda le due scelte? Signor Fabio. Allora, lettera A, lavori assistenziali, che non si fa fatica, ma non serve a niente. Perfetto. Poi, lettera B, che è proprio entrare nel mercato, e ci si fa un gran culo, e vabbè, può essere utile agli altri, e forse si fa il grano. Ottimo, signor Fabio. Mettiamo i voti. No, fermi, non si fa così, non si fa così. Da che mondo è mondo, non si decide con i voti, Questa roba qua si chiede al dottor Del Vecchio. No, signor Fabio. In una cooperativa non decide il dottore, decidono i soci. Sono gli ex pazienti di un ospedale psichiatrico. Passano la giornata ad attaccare francobolli alle buste, a scrivere codici di avviamento postale. Nessuno li ritiene capaci di qualcosa di più, tranne Nello, che intravede nei mosaici che fanno a tavola con le bucce dei mandarini, negli scarabocchi perfettamente geometrici, il talento artistico. Nasce la cooperativa artigiana 180, come la legge Basaglia, specialisti in parquet. Completamente finito il legno. Come finito il legno, Dove sono i Claude e Ossi? Arriva qua, ora. Non lo sa. Fuori le idee, quelle robe lì. Suoniamo tutti i campanelli e chiediamo se hanno del legno. È una stronzata. No, non puoi dire così! Non deve dire così! No, deve dire si può fare! Roby ha ragione. Usiamo il legno di scarto. Il lavoro ingrana, i matti scendono nell'arena della vita. Un medico basagliano, il dottor Furlan, gli riduce drasticamente il livello di medicinali. Dopo il lavoro, lo stipendio, le rate, gli ex rinchiusi scoprono il sesso, anche l'amore. Ma forse tutto accade troppo in fretta e qualcuno si scotta. Il vostro parquet è bellissimo. Tutti quelli che vengono a casa ci fanno dei gran complimenti. Siete veramente bravi. È facile essere bravi col parquet e il resto... Io non lo so come si fa con le ragazze. Guarda che nessuno lo sa. Io ti devo dire una cosa, però. Io ho una malattia. Ho una malattia. È un bel film, Si può fare. Imperfetto, forse, non omogeneo, un po' lungo, ma sincero, commosso e impegnato, come si usava una volta. Il clima e i ritmi sono quelli della commedia, ma l'intento è assolutamente serio. Parlare di un momento in cui l'Italia cambiava, la società si divideva, dopo 15 anni di lotte collettive si tornava a coltivare il privato. In grande spolvero gli attori, a partire da Claudio Bisio, in una delle sue migliori interpretazioni al cinema, per passare ad Anita Caprioli, a Beppe Battiston, a Giorgio Colangeli, a Bevo Storti e agli straordinari matti, tutti attori, quasi tutti sconosciuti, scovati nelle compagnie teatrali di provincia, nelle scuole, fra le pieghe di tanti film. La regia di Giulio Manfredonia è delicata e attenta. Dopo che la parabola illusione, disillusione, dramma si è conclusa, c'è forse qualche tentativo di troppo di trovare un finale d'effetto, un happy ending, ma è una concessione al pubblico che non ridimensiona certo il senso profondo e il valore del film. Sentiamolo allora, il regista Giulio Manfredonia, raccontarci un po' alcuni dettagli di questo film, partendo un po' dall'idea originaria. L'idea parte da Fabio Bonifacci, che è lo sceneggiatore del film, che una decina di anni fa ha visto su un giornale un articolo che parlava di una di queste cooperative, una cooperativa di Pordenone che si chiama Noncello, e raccontava appunto di questa cosa grandiosa che è successa in Italia negli anni Ottanta, di aziende, diciamo, di cooperative, aziende cooperative che si sono sviluppate intorno, anzi sono state costituite da degli ex degenti da manicomio. Un po' è nelle corde sia di Fabio che mie di raccontare anche le storie più complicate, più difficili, più dolorose, con un sorriso, con una voglia di vederne anche un lato ironico. Poi in realtà, come mi è capitato spesso di verificare, nelle realtà dove c'è più dolore, più fatica, più problemi, c'è anche una grande vitalità, una voglia di ridere, di scherzare, quindi sono personaggi molto pronti alla battuta, molto aperti al divertimento. La storia è universale, poi abbiamo deciso di ambientarla a Milano perché è un film che parla del mondo del lavoro e quindi ci sembrava che Milano fosse un po' la città che lo rappresentava meglio, e poi anche perché Milano negli anni Ottanta ha rappresentato proprio qualcosa di preciso nella storia d'Italia, no? Era un po' il centro degli splendidi anni Ottanta. E forse lì nascevano delle possibilità diverse per l'Italia di svilupparsi. C'era lo yuppismo e c'era anche altro, tipo la nostra storia, quindi ci sembrava la città più giusta. Invece Claudio Biso, abbiamo chiesto di inquadrarci in pochi secondi il suo personaggio, Nello il sindacalista. La sua diversità è proprio quella di non accettare nessuna schematizzazione, vedi anche quella del sindacato, cioè un sindacato che lo voleva coerente con l'anda generale. Lui fa un guizzo personale, la normalità ti porta a essere un ragioniere, a ripetere cose che altri hanno già fatto. Sicuramente la uniformità non crea né arte, neanche scoperte scientifiche, quindi Nello in questo senso sicuramente trova negli altri quello che lui un po' è anche. Claudio Bisio e Giulio Manfredonia per Si può fare alla Rosa Purpurea. Ora noi andiamo a dare un'occhiata alle classifiche, come sempre, qui nel nostro programma. Vi diamo conto di come sono andate le cose al botteghino 7 giorni fa. Ci racconta tutto nella Screen Parade Daniela Fagione. Resta tra le stelle La vetta del botteghino, insidiata a distanza da una tempesta tropicale. Scende intanto al 5° posto il musical Mamma Mia. Nel weekend ha incassato 736.000 euro, sfiorando i 7 milioni totali. Debutto in 4ª piazza invece per il thrillerone Babylon AD. Mattia Kassovitz mette da parte subito in Italia 1.050.000 euro. Lei è un assassino, signor Turop. Sì, il peggiore. Ora entri in macchina. Terzo gradino del podio per Woody Allen, il suo Vicky Cristina Barcelona ha aggiunto più di 1.100.000 al suo bottino spagnoleggiante, veleggiando sui 3.500.000. Parte in seconda posizione, naturalmente, la Tropic Thunder di Ben Stiller. Un mare di piogge e risate e più di 1.300.000 nello zaino dei suoi strampalati militari. Sai fare quello che faccio io? Fotografate questo! I miei attrezzi sono le emozioni. E un altro 1.800.000 conferma lo scettro intergalattico a Wall-E, già oltre i 5.200.000 e sempre più innamorato della sua robottina. Wow! La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla quarta parte della Rosa Purpurea, che comincia con un tuffo nelle elezioni presidenziali americane al cinema, ovviamente, o meglio, sulla figura dei presidenti americani al cinema, pochi giorni dall'Election Day, che bloccherà un po' tutta la comunicazione mondiale sul nome del nuovo presidente a stelle e strisce. Già settimana scorsa la nostra Chiara Pizzimenti ci aveva fatto ascoltare un po' uno speciale sulle figure reali dei presidenti al cinema, sulle biografie dei vari Jefferson, Lincoln, Nixon e quanti ce ne sono stati. Tra l'altro è prossimo a Torino anche l'arrivo del W di Oliver Stone, tutto dedicato alla figura dell'uscente Bush. Oggi invece Chiara Pizzimenti ci racconta i presidenti di fantasia, quelli un po' inventati a favore dei film, magari commedie strampalate o film d'amore. Sentiamo Chiara Pizzimenti sui presidenti americani al cinema. Oh, say, can you see by the dawn? Di cognome fa Ford, come un vero presidente, di nome Harrison e oltre a essere stato Indiana Jones è anche il migliore, secondo un sondaggio, fra quanti, e sono tanti, hanno interpretato un capo della Casa Bianca, inventato da Hollywood. Il film è Air Force One, come l'aereo presidenziale, dirottato in quel caso dai terroristi. A terra una vice donna, Glenn Close, cosa mai successa nella realtà. Una donna alla Casa Bianca è entrata però anche come fidanzata, era Annette Bening, nuovo amore del vedovo presidente Michael Douglas in Il Presidente, una storia d'amore. Mi concede questo ballo? Sì, credo di sì, è un onore. Un paio di volte al 1600 di Pennsylvania Avenue sono arrivati anche gli alieni. In Independence Day il presidente si è messo alla guida di uno degli aerei all'attacco della nave nemica. Jack Nicholson in Mars Attacks invece ci ha provato prima con le buone. Metterò il completo blu di Cerruti. E mi ci vorrà un bel discorso, Jerry. Un misto tra Abraham Lincoln e la famiglia Robinson, tanto per avere un'idea. È in fuga dalla Casa Bianca il corrotto Dan Aykroyd, che cerca di addossare su due predecessori le responsabilità di uno scandalo. In visita a Londra va invece un presidente mascalzone con le donne, Billy Bob Thornton, in Love Actually. Dennis Quaid è invece l'uomo della Casa Bianca in American Dreams, palesemente ricalcato su Bush Jr. Tu lo sapevi che ci sono due tipi di irachistani? No, è veramente tre. Vuole dire sunniti, sciiti e curdi? Lo sapevi? Nei colori della vittoria l'ispirazione sono i coniugi Clinton in Sesso e Potere. Dustin Hoffman e Robert De Niro inventano una guerra per deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dalle molestie del presidente su una Girl Scout. Un comico che arriva alla Casa Bianca, Robin Williams, uomo dell'anno. Presidente per un giorno invece Kevin Kline, Dave, uguale al capo della Casa Bianca, finito in coma. Saluti sulla porta, scendi le scale, sali sulla limousine. Okay. Comunque se volete che faccia altre cose, basta chiedere, se volete che parli. Non aprire bocca. Non poteva non andare in soccorso del presidente l'agente Leslie Nielsen in una pallottola spuntata 2.5 e addirittura un uomo che picchia l'amante, il presidente di potere assoluto di Clint Eastwood, che è anche un agente dei servizi segreti tormentato dai sensi di colpa per non essere riuscito a proteggere Kennedy a Dallas in Nel centro del mirino. Non si dimentichino infine i presidenti di colore, il comico Chris Rock, consigliere comunale che arriva con rap e discorsi fatti con il cuore fino alla Casa Bianca in Head of State, e Morgan Freeman in Deep Impact, quando un meteorite sta per colpire la Terra. E a questo punto noi siamo arrivati nella zona dedicata ai DVD, come sempre presidiata dal nostro Claudio Poffi, che è in collegamento. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, c'è da raccontare, come sempre, tre film, da svelare il dilemma, il DVD game della settimana scorsa, ma soprattutto e prima di tutto da ascoltare l'ultima traccia misteriosa del DVD game di questa settimana. Cos'è successo di preciso quando lei e suo fratello siete entrati in acqua? Beh, abbiamo nuotato verso di voi. No, suo fratello ha detto che un uomo ha tentato di fermarlo. Ah no, ma quello, sì, quello era un cretino. Sembrava che avesse paura e ci ha detto che non ce l'avremmo mai fatta. E questo, il cretino? Io e Carlo, sì, è lui. La Rosa Purpurea @radio24.it, a questo punto dovreste aver indovinato, perché era proprio difficile celare le tracce di questo film, dove c'è un attore, come forse avete capito, molto molto presente. Beh, scopriremo chi ha vinto la prossima settimana. Invece facciamo il consueto salto indietro di 7 giorni e ascoltiamo una delle tracce, la più famosa, che vi avevamo seminato 7 giorni fa. Al cuore, Ramon! Se vuoi uccidere un uomo, devi colpirlo al cuore! Sono parole tue, no? Si trattava di Per un pugno di dollari. Hanno vinto Pier Maria Mazzola di Verona e Matteo Bertozzi di Igea Marina, costiera riminese. Riceveranno appunto il DVD straordinario della Ripace di Per un pugno di dollari. Ho sprecato l'aggettivo, Claudio? No, assolutamente no. È stato fatto un grandissimo lavoro di restauro. Ripley ripropone questo capolavoro, il primo, il capostipite del Spaghetti Western del 64 del maestro Leone, in una forma assolutamente splendida. Ci sono veramente tantissimi contenuti extra per approfondire segreti della lavorazione, interviste, tra cui una molto interessante al maestro Ennio Morricone, ma ci sono tanti ricordi, tante testimonianze e racconti di coloro che hanno partecipato alla realizzazione di quest'opera. Come dicevo, grandissima cura per quanto riguarda la parte video. Questa edizione di Per un pugno di dollari arriva anche in alta definizione in Blu-ray con ulteriore qualità video. Per quanto riguarda l'audio, c'è una differenza a livello di tipologia di tracce audio, però insomma parliamo di un film molto vecchio. Per quanto si possa spingere in là la dinamica di una traccia audio, non si è riuscito a fare molto di più, rimane comunque molto ascoltabile senza particolari problemi, e le edizioni speciali sono corredate da un addirittura soggetto autografato dal regista, un volume illustrato di 52 pagine, fotobuste della versione originale, 2 manifesti in formato cartolina, insomma una vera edizione per collezionisti. Davvero cimeli straordinari quelli che hai citato, Claudio, per chiunque ami la memorabilia cinematografica. Noi facciamo un altro passo indietro, sempre in quegli anni 70, ma cambiamo completamente genere, comicità, a volte assurda, a volte grottesca, sicuramente sempre di grande qualità. Frankenstein Junior torna con un'edizione in Blu-ray di cui Claudio ci parlerà fra poco. Ascoltiamo prima la clip. lupo ulula. Lupo ulula? La? Cosa? Lupo ulula e castello ululì. La qualità dell'opera rivive finalmente, insomma, nel suo originale fulgore. Ritroviamo la grana di quella pellicola così come era stata realizzata da Mel Brooks. L'opera arriva in alta definizione per salutare i 35 anni dalla realizzazione del film. Sono veramente tantissimi gli extra all'interno di questo Blu-ray, tra cui segnalo veramente spassosa questa visione, immagine nell'immagine, mentre si visiona il film scorrono ulteriori immagini per approfondire ulteriormente la realizzazione dell'opera, con interviste, la presenza del grandissimo Mel Brooks, che riesce ancora a scherzare, a ricordare i momenti più ilari durante la realizzazione. Ci sono vari focus sulla lavorazione, approfondimenti sulla musica, e c'è addirittura un curiosissimo gioco che permette, attraverso i tasti del telecomando, di riproporre alcuni effetti sonori del film. Frankenstein Junior, quindi, Claudio, in Blu-ray, con una serata di lancio di questa edizione che è stata davvero straordinaria al Cinema Mexico di Milano. Centinaia di persone in attesa, in coda, in mezzo alla strada, si sono dovuti raddoppiare gli spettacoli per poter contenere tutti quelli che volevano assistere a questo live show con gli attori in carne e ossa sul palco, ovviamente non Gene Wilder e Marty Feldman, ma attori che rifacevano i loro versi in contemporanea sul palco, mentre la gente poteva per una volta esultare e recitare a memoria ad alta voce tutte le battute, insomma, come vedere un film in una curva di uno stadio. Noi proseguiamo per l'ultimo consiglio in DVD di questa settimana, ancora un passo indietro di una quindicina d'anni, quando in quel 1961 Michelangelo Antonioni estasiava la critica mondiale con il film che ne consacrava la grandezza. Si intitolava La notte, ascoltiamo la clip. Ho cancellato tutte sciocchezze. Perché fai così? Ah, perché la mia non è una vocazione irresistibile. Tra l'altro, dice mia madre, che stare chiusa in casa tutto il giorno a scrivere fa male alla pelle. È un peccato sprecare così l'intelligenza. Io non sono intelligente, sono sveglia. È diverso. Le cose mi basta guardarle, non ho bisogno di scriverle. Distribuisce Medusa questo dramma, questa crisi sentimentale tra moglie e marito, che diventa l'immagine, la riflessione di questa crisi esistenziale vissuta da una società che non è più in grado di credere in se stessa. Un bianco e nero livido, freddo, assolutamente straordinario per questa edizione della collana Il Grande Cinema, che arriva con una qualità veramente notevole per quanto riguarda la parte video, addirittura una doppia traccia in Dolby Digital monofonico e multicanale. È presente anche il ricordo da parte dello sceneggiatore Tonino Guerra, oltre che la presentazione del film. Grazie a Claudio Pofi, con La notte noi chiudiamo il nostro spazio dedicato a DVD. Ci sentiamo fra 7 giorni, Claudio. A presto, a risentirci. E noi abbiamo a questo punto concluso la nostra puntata della Rosa Purpurea per questa settimana. Vi abbiamo parlato di buona parte dei 10 film che sono arrivati sugli schermi italiani. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it, per qualsiasi tipo di corrispondenza voi vogliate intrattenere con la nostra trasmissione, che torna come sempre sabato alle 18, domenica alle 9, la prossima settimana qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.